Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, è vero, a prima vista Milan-Inter il sabato 2 aprile, cioè la ripresa del campionato dopo la sosta azzurra, è decisiva per lo scudetto, ma in realtà è soltanto il primo di una serie di confronti diretti che coinvolgono anche a pieno titolo Napoli e Udinese. E allora, se vogliamo davvero esaminare tutte le date delle tappe scudetto, sono il 2 aprile per l'appunto Milan-Inter, il 17 aprile Napoli-Udinese, il 15 maggio Napoli-Inter e il 22 maggio Udinese-Milan. Sono due appuntamenti ciascuno a incrocio, con un vantaggio per il Napoli di giocarli entrambi in casa, con l'Udinese appunto e con l'Inter. Questo per quanto riguarda il calendario, che però a questo punto mi pare abbia assunto un interesse, non dico decisivo, ma insomma un interesse che solo fino a 2-3 settimane fa proprio non si immaginava. D'altra parte i numeri sono chiarissimi, i punti di distacco che l'Inter aveva dal Milan all'arrivo di Leonardo erano 13. Erano 36 e 23 in classifica, poi c'erano due partite da recuperare, è vero, ma insomma sono 11 punti recuperati in 15 giornate e questo è un dato molto molto significativo. Poi è vero che lo scorso anno Leonardo ha perso due derby su due, ha perso con un 4-0 e con un 2-1 e quindi non è detto che poi questa tradizione del non c'è due senza tre non possa durare. Certo, molte cose sono cambiate, perché per esempio la sconfitta del Milan a Palermo, una sconfitta non dico senza combattere, ma insomma una sconfitta che è sembrata molto più una resa, non avveniva nel caso del Milan dal 18 dicembre in casa con la Roma, ma in trasferta addirittura dalla giornata di Cesena, proprio a inizio campionato. E sono tutti parametri e fattori da tenere presenti, a maggior ragione se si considera il grande momento, il buon momento del Napoli, che è tornato a essere in forma, che era precipitato a meno 8 e tornato a meno 3, ma soprattutto il grande momento dell'Udinese, che a sto punto, staccato di 6 punti dal Milan, un pensierino effettivamente ce lo può fare. Poi ci sono tanti altri spunti di giornata che ascolteremo e di cui poi parleremo insieme a voi, insomma, con i consueti commenti e interventi del lunedì. Nel frattempo un riassunto attraverso i personaggi chiave di questa giornata, cominciando da Cavani. La realtà dice oggi che noi siamo lì, quindi diciamo che speriamo che possa essere la mia squadra, anche sappiamo che sarà molto difficile, molto duro, però noi diciamo che è da un bel po' che stiamo lottando per questi primi posti e cercheremo, e io credo che venderemo cara la pelle fino alla fine dell'anno, fino alla fine del campionato. Io credo che le pressioni ci stanno sempre, in ogni partita, diciamo in ogni campionato, non è vero quello, secondo me noi sappiamo, cerchiamo di essere tranquilli, però le pressioni ci stanno sempre. Cercheremo di continuare così come l'abbiamo fatto fino adesso, per la nostra strada e come l'abbiamo fatto dall'inizio del campionato. E questo era Cavani, che è tornato a essere ieri, dopo un digiuno di 6 giornate, è tornato a essere leader dell'Udinese, leader del Napoli. Questo è un fronte, l'altro fronte è quello dell'Udinese, che nel giro di 3 settimane è passato come quota scudetto, pensate, da 100, era quotato a 100, a 40 e attualmente a 16. Ora, 16 è ancora una grande quota, per carità, però insomma, da 100 a 40 a 16, questo vuol dire di quanto è cresciuto nella considerazione dei bookmakers l'Udinese, e nello stesso tempo, per converso, vuol dire di quanto è scesa la stima nei confronti del Milan e della sua possibilità e capacità reale di vincerlo sul serio questo campionato. Abbiamo cominciato da Cavani e continuiamo con Pazzini. Questi 2 mesi che sono qua, insomma, sono successe tante cose, sono una grande squadra, campione del mondo, abbiamo recuperato tanti punti, giochiamo lo scudetto, ho la possibilità di vincere qualcosa, quindi, o almeno la possibilità, quindi sono veramente molto contento. Non mi ero nemmeno accorto che stessero protestando per il fallo di mano, quindi gli ho detto subito no, assolutamente, credo che anche dalle immagini si veda, insomma, che il mio movimento del braccio forse può ingannare, ma la palla mi sbatte sul petto alto, vicino alla spalla. E questo, l'ultima fase, insomma, di questo intervento si riferiva alle modalità di realizzazione del gol del gol decisivo per battere il Lecce. È vergognoso e umiliante per i tifosi quello che accade nella società granata, scrive un ascoltatore. Beh, insomma, io lo trovo soprattutto ridicolo, più ancora che cioè io non riesco a leggere le umiliazioni e le vergogne in una situazione di questo genere. È ridicola, e quando il ridicolo dura per troppo tempo è patetico. Insomma, questo presidente, il suo modo di gestire, il suo insomma tutto, 5 anni, 6 anni mi pare stia durando l'avventura di Cairo, che poi ne segue altre non meno ridicole, non meno patetiche, da parte di una società che insomma, seriamente non esiste più da almeno una ventina d'anni. Certo che il nuovo primato di un allenatore convocato a capezzare una squadra in difficoltà esattamente 11 giorni prima di essere licenziato, e quindi con la possibilità di giocarsi soltanto 2 partite e perderle e ritogliere il disturbo, credo sia, se non un primato in assoluto, ma insomma per l'appunto un primato di cattivo gusto e di ridicolaggine, di cui non credo che il povero Torino sentisse in modo particolare la mancanza. Abbiamo sentito la voce di chi insegue da vicino, e cioè Cavani e poi Pazzini. Sentiamo la voce di chi insegue da ancora un pochino più lontano, ma insomma lo è sempre meno lontano. Avete sentito come è crollata la quota scudetto dell'Udinese da 100 addirittura a 16. Guidolin. Abbiamo fatto un altro passo in avanti in una partita non semplice, anzi complicata, per merito del Catania. E andiamo avanti, il nostro sogno europeo continua. Siamo sempre lì a lottare con le squadre che sono tra il terzo e il quinto posto, molto vicine. Abbiamo mantenuto le distanze da Juventus e Palermo, insomma, che sono altre squadre che lottano per l'Europa comunque. Direi che siamo soddisfatti anche della nostra prestazione, non è stata sicuramente la migliore, ma abbiamo vinto, credo, con merito. Noi dobbiamo continuare a correre forte se ci riusciamo e non fare altri tipi di pensieri. Ecco. Guardare, un occhio guarda avanti, un occhio guarda dietro. Se faremo bene l'Europa non ci scapperà, non so quale, ma dobbiamo ancora però inanellare belle prestazioni e dei bei risultati. E mettere appunto a fuoco che genere di Europa. L'Udinese nelle ultime 13 partite ha ottenuto 10 vittorie e 3 pareggi, ha il miglior attacco del campionato a pari merito con l'Inter, 56 gol, ha addirittura un più 24 punti rispetto alla stagione scorsa, cioè, che è un miglioramento abissale, nettamente il migliore in assoluto, il più prestigioso del campionato. Quindi mi pare che anche i numeri diano completamente ragione a Guidolin e alla sua banda. Adesso si tratta di mettere a fuoco che genere di Europa. Ovviamente l'obiettivo minimo che Guidolin ricorda sempre del buon pompiere è quello dell'Europa League, ma la posizione attuale è già da Champions, e poi insomma limite alla provvidenza mi sembra che ce ne siano sempre meno mano a mano che passano le giornate. Primo intervallo, strade. Qualche altra sintesi statistica di una giornata molto ma molto significativa. Beh, insomma, intanto i numeri positivi del Napoli, perché Cavani non segnava dal 12 febbraio, ma con questa doppietta è arrivato a 22 gol, che significa eguagliare il record assoluto di un giocatore del Napoli nella storia. Stagione 32-33, Wojak 22 gol. De Santis ha superato il primato di imbattibilità casalinga, che apparteneva a Castellini e durava da 30 anni, vecchio portiere del Napoli, dopo esserlo stato del Torino. Poi si arriva, certo, a Totti, che insomma, inseguiva questo primato, questa barriera storica dei 200 gol in Serie A, un numero che soltanto in 5 avevano varcato prima di lui. Lui è il sesto giocatore, poi già che c'era l'ha superato in tromba, arrivando a 201 gol, e a questo punto è a 4 gol solidi da Roberto Baggio, sesto giocatore di sempre a toccare, a superare per l'appunto quota 200 gol in Serie A. Una notazione per i romanisti più attenti: Totti nelle ultime 2 partite ha segnato 4 gol. Ora è vero che 2 sono rigori e una è una punizione in cui Muslera è stato determinante, però comunque queste due partite, al di là dei gol segnati, è stato anche protagonista in assoluto. Per pura combinazione sono le due partite in cui Borriello non è mai sceso in campo nemmeno per un minuto, non ha giocato nemmeno un minuto con la maglia della Roma, cosa che invece aveva fatto in tutte le precedenti, uno o più minuti in tutte le precedenti partite della Roma. Io credo che sia un dato molto ma molto interessante. Daniele ha chiamato dalla provincia di Ravenna, buongiorno. Salve, buongiorno signor Garanzini. Dica. Senta, io oggi ho letto le convocazioni di Prandelli. Sì. E sono rimasto disgustato perché non vedo il nome di Di Natale. Un ragazzo che io mi ricordo negli ultimi due anni aver preso un'espulsione. È corretto, una persona veramente sia per valore tecnico che per valore professionale. Per me è il massimo, ma perché non premiarlo? Ma perché non portarlo in nazionale e portare magari altra gente che si è distinta per cose poco belle? Questa è la mia domanda. Aspetto la sua risposta in linea, grazie. La risposta la dovrebbe dare Prandelli, caro lei. Io condivido la scelta di... Condivido la scelta di Prandelli, cioè che Di Natale sia un grande giocatore non c'è discussione, che sia in questo momento l'attaccante italiano più prolifico lo dicono le classifiche cannoniere a due anni a questa parte, che insomma, alla sua età Di Natale non possa più rappresentare il perno o un perno di una formazione che ha necessità assoluta di rinnovamento e di rifondazione dopo il disastro sudafricano è altrettanto innegabile. Quindi credo che oltretutto sono certo che una persona con grande capacità di dialogo, oltre che di grande intelligenza, come Prandelli, abbia concordato questa cosa con Di Natale, facendo probabilmente anche il suo interesse, perché ho l'impressione che se Di Natale si dedica soltanto alla sua età, si dedica soltanto al club, sia un vantaggio per il club, ma sia un vantaggio anche per lui. Credo che i problemi veri per Prandelli in questo momento siano altri, e cioè siano quelli che ha dovuto affrontare molto responsabilmente, di lasciare a casa due pedine come De Rossi e Balotelli, giustissimamente, e dall'altro sia il dover fare i conti con la forma e la condizione di quella che è la spina dorsale della sua squadra, perlomeno in teoria. La spina dorsale della nazionale di Prandelli o dovrebbe essere Buffon. Avrete visto un'uscita ieri, già in un periodo non facilissimo. Chiellini, lasciamo perdere. De Rossi, non convocato per indegnità, no, di comportamenti. Cassano, a qualcuno sarà capitato di vederlo giocare si fa per dire a Palermo la sera di sabato. Balotelli, un altro lasciato fuori per ragioni ancora più gravi di De Rossi. Questa era la spina dorsale su cui legittimamente Prandelli aveva provato a fondare la sua nazionale. Pensate un po' a come è combinato adesso. Angelo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Dunque, io sono un interista. Volevo chiedere a lei, ma o veramente Leonardo è così bravo, oppure c'è questo fattore C che ci dà la spinta a noi interisti di vedere ancora qualcosa di bello? La ringrazio. Grazie a lei. Grazie a lei, Angelo. Sì, c'è un po' di tutto, guardi. C'è un po' di tutto, ma c'è soprattutto, come sempre, la sopravvalutazione dell'allenatore. Nel senso che sì, può avere un bel fattore o non un fattore, che lei citava prima, però poi in campo ci vanno altri, e l'Inter ha tante risorse di gioco quando è Tori fiata, perché se non avesse rifiatato dopo quello che aveva combinato a Monaco non sarebbe stato umano. Quando è Tori fiata c'è qualcun altro che ci deve pensare, e ci ha pensato qualcun altro, poi davvero col minimo sforzo. Stavo però, mi intrigava di più il discorso su Prandelli, sui suoi perni azzurri. Mi è venuto in mente un altro, Thiago Motta, un altro su cui Prandelli recentemente è molto investito. Ora, non si sta parlando del valore in assoluto di questi giocatori, si sta parlando del valore del momento. Anche Thiago Motta non mi sembra davvero in una di quelle fasi o di quei momenti di forma su cui poter contare in maniera particolare. anche se rispetto a quegli altri, a cominciare da Chiellini che abbiamo nominato prima, è già, insomma, è pur sempre un'altra cosa. Fabio ha chiamato la provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Benissimo. Niente, io da milanista sono semplicemente molto deluso per le partite, le ultime due partite. E stamattina ho letto sulla Gazzetta che c'è una recriminazione per il gol di Pazzini che io tra l'altro non ho visto. Però anziché recriminare, voglio dire, si pensi a quello che non è stato fatto nelle ultime due partite e a che Robinho, non mi ricordo contro che squadra, è stato regalato un gol che se l'era fermata con il braccio. Milanista un po' deluso. La ringrazio e l'ascolto per radio. Sì Fabio, credo che se parliamo di mani, di braccia, di cose di questo genere, quest'anno no, il Milan non si possa lamentare. Cioè, se sento, leggo che c'è questo distinguo tra il gol di Ibrahimovic annullato contro il Bari e il gol di Pazzini ieri contro il Lecce, a parte che mi sembra davvero delle miserie, soprattutto dopo una partita dopo aver pareggiato contro il Bari e aver perso Palermo giocando in quella maniera, ma oltretutto mi sembrano davvero due dinamiche non così profondamente diverse, ma diverse comunque, e la diversità è che uno la prende col braccio e l'altro invece la prende con un pezzo di petto e un pezzo di spalla, comunque in maniera regolare anziché no. Ma ripeto, se una società fa trapelare la propria amarezza per questa disparità di trattamento, eccetera, e tra l'altro si parla di braccia e si dimentica, per esempio, appunto, Chievo-Milan o molto peggio ancora Milan-Palermo dell'andata, beh, insomma, non è un buon segno, perché vuol dire che c'è qualcosina dal punto di vista dell'autocontrollo nervoso che non sta più funzionando, come è normale poi in fondo che sia in un momento di difficoltà così palese, così evidente. La sorpresa delle convocazioni, scrive Daniele da Venezia, è che ci sia Santon e non Abate. Su questo sono d'accordissimo, sia per demerito di Santon che per merito di Abate, invece, che mi sembra del Milan di quest'anno in assoluto uno degli elementi più positivi, e forse in assoluto quello che è cresciuto di più. Silvio, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Volevo chiederle, dottor Garanzini, ieri, vabbè, intanto io sono un tifosissimo del Napoli, la partita dopo Fiorentina-Roma, praticamente in un'intervista a Totti, il giornalista gli aveva chiesto cioè come vede la lotta a scudetto, no? Praticamente, vabbè, il Napoli ancora doveva giocare. Ma lui praticamente ha detto: per me è una lotta a due tra Milan e Inter. Cioè, se uno mi sei dimenticato, a parte che, vabbè, che non corre buon sangue tra noi napoletani e i romani, ci mancherebbe. Però forse si è dimenticato anche dell'Udinese, a parte il Napoli che lui non ho voluto nominare, non lo so, vabbè. Io lo ammiro come calciatore, come uomo assolutamente zero, vabbè, come calciatore nulla da dire, ci mancherebbe. E poi un'altra cosa, io non ho sentito le convocazioni di Prandelli, e non so come centrale si è portato ancora Chiellini, visto che io presumo che Cannavaro stia facendo un ottimo campionato, perché non provarlo? Tutto qui. Tutto qui. Sì, non è poco, insomma, no, non è poco dal punto di vista tifoideo. Comunque, sì, io credo che Totti, non è il solo Totti a pensare che sia una lotta a due tra Inter e Milan, mi pare che sia la grande maggioranza degli appassionati, ma anche dei giornalisti che lo pensano, degli osservatori in genere, che non credono nel ritorno nell'ennesimo ritorno del Napoli e in quello invece da molto lontano dell'Udinese. A me sembra che sbaglino, però non mi pare. A, non è reato; B, non è nemmeno una mancanza di rispetto, cioè ci vuole tutta la permalosità del tifoso in genere per dire: questo non ha citato la nostra squadra come in corsa per lo scudetto e già avrà avuto altro, la pensa diversamente, o avrà avuto altro per la testa, oppure era stanco da una grande partita. Io la metterei molto semplicemente così. Secondo intervallo, mercati. Torniamo con una dichiarazione di Prandelli. L'Italia è in raduno a Coverciano per, appunto, per questa partita in Slovenia. Tra l'altro, ecco, diciamo che le notizie sono due. Una prima è riguarda la l'ordine pubblico, se vogliamo anche la società civile, nel senso che sono già attivi i controlli al confine tra Slovenia e Italia, ed è una squadra di 8 operatori della polizia inviata da Manganelli, leggo da un'ANSA, e 10 steward di appoggio predisposti da Federcalcio. Perché? Perché si tratta di cercare di evitare, almeno questa volta, dopo che nelle ultime trasferte è sempre accaduto, lo spettacolo indecoroso degli ultranazisti che purtroppo l'Italia si trascina al seguito da qualche tempo a questa parte, che sono un gruppo per fortuna non particolarmente nutrito, ma sono pur sempre una rappresentanza indegna di seguire il calcio italiano all'estero. E questa è una notizia. La seconda l'ha data Prandelli. Prandelli ha detto: ho sentito Balotelli, si è reso conto di aver fatto una stupidaggine, e si riferisce evidentemente al raptus da Kung Fu con cui Balotelli si è fatto espellere lo scorso mercoledì, giovedì, giocando con il Manchester City in Europa League. Signor Balotelli si è reso conto di aver fatto una stupidaggine, mi ha detto: ho bisogno d'aiuto, rovino sempre tutto. Ora, è molto bello che Balotelli dica questo a un allenatore dal volto umano, direi, come Cesare Prandelli, però è ancora sempre incompleto, perché o Balotelli si decide questa cosa a dirlo a uno psichiatra, con tutto rispetto per Cesare Prandelli, o perlomeno a coinvolgere anche un qualcuno che lo curi da un punto di vista proprio clinico, oppure ho la certezza che resterà sempre a metà del guado, e quindi resterà sempre quella promessa incompiuta, e presto diventerà quella ex promessa incompiuta. Giuseppe ha chiamato da Terni, buongiorno. Sì, sentendo quello che dice adesso, più che uno psichiatra, un assistente sociale. Anche, sì, forse un assistente sociale, insomma, però qualcuno che lo aiuti da un punto di vista... Ma qui sono troppi che vanno aiutati, perché De Rossi in un modo, Cassani in un altro, Balotelli in un altro ancora. Se questo è il futuro della nostra nazionale, io non so se le nuove generazioni riusciranno a fare veramente, sì, a dare nuova linfa. No, vabbè, Giuseppe, però De Rossi no, insomma, De Rossi ha commesso un errore in una partita, un errore di nervosismo. Il precedente errore risaliva al Mondiale 2006. Se parliamo di comportamenti inadeguati o scorretti, quindi De Rossi lo toglierei da questo elenco. Cassano ha problemi ha problemi da sempre, però il problema di questo, forse quello attuale di Cassano, è il suo eccesso di normalità o normalizzazione, mentre invece è Balotelli il vero caso, no? Calcistico, ma direi anche umano, o sbaglio? Mi perdoni, io guardo un'altra cosa, che noi abbiamo una nazionale che va rifondata, ci sono giocatori di valore assoluto e Balotelli è uno di questi, ma se purtroppo dobbiamo sottostare a quelle che sono le psicopatie che prendono a questi giocatori, e un selezionatore si trova costretto a dover fare le telefonate per non convocare un giocatore, quando invece per una nazionale italiana sarebbe fondamentale i Bonucci, Ranocchia, tutta quella gente che, voglio dire, sta venendo su probabilmente bene, sta immagazzinando anche esperienza, perché quello serve per fare una nazionale, non i di Natale, sono d'accordo con lei, che fa 25 gol, ma poi per un futuro europei e mondiali probabilmente serve a poco e a niente. Però io vedo a livello di settore giovanile, quindi di giovani che stanno venendo fuori del campionato nazionale italiano, veramente poca roba, e questo mi preoccupa enormemente. Sul poca roba siamo completamente d'accordo, tant'è vero che perché da una parte i leader, o comunque quelli che hanno già l'età da leader, che in teoria lo dovrebbero essere, o che sono leader, diciamo che sono leader molto presunti in parecchi casi, di giovani ne escono pochi, indubbiamente. Io credo che solo, se parliamo di reparto arretrato, solo Ranocchia mi sembra negli ultimi tempi abbia davvero fatto intravedere qualcosa. Gli altri che davano segnali molto interessanti, non dico che si siano persi, ma sono stati già coinvolti in una stagione, se non altro, negativa della loro squadra o del loro reparto. Sto pensando in particolare a Bonucci, per esempio, facendo questo discorso. Altri non sono mai del tutto maturati in maniera autorevole, in maniera, penso a Criscito, in maniera da dimostrare classe internazionale, e invece ce ne sono altri che magari sono partiti con con meno riflettori, con meno fanfare, e che un po' alla volta stanno diventando invece anche di sostanza. E sto pensando a Nocerino, per esempio, in un caso, in questo caso. Vediamo. Certo, le grandi covate in cui hai l'imbarazzo della scelta tra talenti assoluti, le grandi covate sono diverse da quella contemporanea. Su questo dubbi non ce ne sono proprio. Alessandro, in linea da Monza, buongiorno. Buongiorno Granzini, è un piacere parlare con lei. Senta, volevo parlare un attimino del Milan. Secondo lei, almeno dal mio punto di vista, il centrocampo del Milan è un centrocampo troppo muscolare e poco tecnico. Questo ha ripercussioni secondo me anche per il gioco offensivo e soprattutto per Ibrahimovic, che comunque in Italia è un giocatore che secondo me fa ancora la differenza. Magari all'estero stenta un attimino perché trova squadre più forti. Lei cosa ne pensa di questo? Penso che sia abbastanza così. Il Milan sta scontando molto gravemente l'assenza di Pirlo, perché la mancanza di qualità a metà campo è evidente. Cioè, se Gattuso è il migliore del centrocampo del Milan, povero Milan, no, con tutto rispetto per Gattuso, intendiamoci. Cioè, quando Gattuso è il gregario, o il più autorevole dei gregari, il più appassionato dei polmoni, non so come la mette lei come vuole, allora è un Milan di un certo livello. Quando Gattuso diventa l'ispiratore migliore della manovra del Milan, il Milan è rovinato. Comunque, che è quello che il Milan non capì, molti milanisti non capirono la sera della vittoria a Torino sul campo della Juventus, perché quella fu una vittoria preziosissima per i punti, per cosa. Ma quella sera l'Inter, il Milan giocò male, esattamente come poi ha giocato con il Bari e con il Palermo, e mi viene da dire anche a Londra. E quindi la crisi, o comunque la flessione netta di qualità, era cominciata già in quella circostanza. Daniele da Milano dice: vorrei sottolineare che l'Udinese non è solo Sanchez e Di Natale, visto che nelle ultime 7 partite ha subito 0 gol. Ha ragione da vendere lei, Daniele. Infatti l'Udinese ormai è una grande squadra in assoluto. Che poi abbia davanti una coppia di gioielli è altrettanto vero, ma se non avesse questo telaio così collaudato, e con giocatori di qualità davvero in ogni reparto, portiere compreso, è ovvio che non sarebbe, al di là del quarto in classifica, non sarebbe a 6 punti dalla vetta, e quindi teoricamente è ancora in lizza per giocarsela. Da Varese ha chiamato Mimmo, buongiorno. Buongiorno Garazzini. Dica. Volevo dire solo, per quanto riguardava il Milan, che quest'anno secondo me il Milan non è una squadra fortissima. Mi baso solo su una cosa, che la squadra titolare del Milan su 7 giocatori su 11 non giocano in nazionale. Magari potrebbe essere un problema, perché 7 giocatori del Milan non sono nazionali, 4 giocano in nazionale. Le ultime formazioni del Milan, quelle che leggo, sono 7 giocatori che non giocano in nazionale e 4 sono nazionali. Può essere una curiosità, certo, una curiosità anche del momento, non credo sia un parametro assoluto. È che il Milan sta giocando male in questa fase, dopo aver invece giocato in un'altra maniera fino a un mesetto fa almeno. E quindi poi titolari o non titolari, nelle rispettive nazionali dipende da scelte, da concomitanze, da affollamenti di posti, da ruoli molto coperti, altri meno, e poi sono sempre parametri relativi, perché per esempio Abate meriterebbe secondo me oggi di provare a giocare in nazionale, e invece il commissario tecnico la pensa in maniera diversa. Quindi Marco, provincia di Pisa, buongiorno. Buongiorno signor Granzini. Niente, volevo fare complimenti a Del Piero e a Totti, perché il gol di Del Piero è bellissimo, il gol di Totti anche se era solo, però l'ha messa dove il portiere non poteva arrivare, gesto atletico e tecnico, mi sembra bello. Poi un'ultima cosa veloce, signor Mazzari, anche ieri non l'ho sentito lamentarsi dell'arbitraggio, nemmeno a Palma fuori gioco. Non so se per lei quel rigore era così netto come 2 volte il Napoli lamenta che gli vengano non concessi. Ma insomma, io ieri di cose davvero davvero sbagliate ho visto rigore regalato alla Sampdoria, questo sì. Questo sì, perché ci voleva davvero un occhio di lince, intanto per capire in mezzo a quel groviglio di giocatori in area chi avesse davvero preso il pallone con la mano. Se poi si scopre che il pallone con la mano l'ha preso il giocatore della squadra di casa, no? E non uno dei due della squadra in trasferta, ed erano saltati insieme, ripeto, in groviglio, e viene dato un calcio di rigore del genere, beh, insomma, questo mi sembra un errore abbastanza inquietante. Tutto il resto mi pare che più o meno potesse far parte della routine, no? Della routine di errori, intendiamoci bene, ma insomma di errori che saranno sempre molto, molto meno gravi, lo ripeto ancora una volta, del gol che Eto'o si sbaglia da un metro contro la Juventus, o di quello che Giaccherini si sbaglia a sua volta nell'altra circostanza, e parliamo di una settimana fa. Gli errori arbitrali rispetto a questo, solo che ripeto, gli errori dei calciatori hanno sempre il diritto al beneficio della buona fede. Gli errori, se sbaglia un arbitro in maniera molto, ma molto, ma molto meno grave, c'è subito il sospetto a far compagnia a questo errore. Ultimo intervallo, strade. Prandelli ha esibito una coccarda tricolore puntata sul bavero della giacca, ha detto: mi sembra giusto, siamo in festa tutti e questa festa deve continuare. Parlava evidentemente della festa per i 150 anni dell'Unità d'Italia, non tanto quella che riguarda il momento dei suoi azzurri. E poi ci sono Ranocchi e Thiago Motta che restano in ritiro, nel ritiro di Coverciano, sperando di poter recuperare rispetto ai loro infortuni. È stato lo stesso Prandelli, appunto, a dire che i due giocatori sono stati visitati e hanno dato la loro disponibilità a restare. Vediamo allora se si possono recuperare. Vediamo anche, anzi ascoltiamo, che cosa ha trovato Nicola Filippone per la data di oggi, 21 marzo, primo giorno di primavera. Sembra ieri. 21 marzo 1993. Con una punizione capolavoro di Asprilla, il Parma di Nevio Scala sbanca San Siro, battendo 1-0 il Milan di Capello. Finisce per i rossoneri una striscia di imbattibilità in campionato durata 58 gare. Si tratta tuttora del record assoluto per la Serie A. L'ultima sconfitta subita risaliva quasi 2 anni prima, 19 maggio 1991, 2-1 contro il Bari durante la gestione Sacchi. Curiosamente, la serie record di imbattibilità era iniziata proprio contro il Parma. Giorni non particolarmente favorevoli al Milan questi nella storia, no? Perché si è parlato del 91 anche nella rubrica Nicola Filippone, insomma risale al 20 marzo del 91 la peggior figura della storia del Milan, antica o recente, che è la famosa notte di Marsiglia. Ieri e per l'appunto c'è stato questo ventesimo triste anniversario su cui evidentemente meglio sorvolare, anche se proprio da una recente intervista a Franco Baresi di un mese fa, Franco Baresi parla alla stampa e ricostruisce il grande Milan nato nell'86, no? E quindi questo venticinquennale attraverso le sue tappe principali. A una domanda ha dato una risposta che è passata, secondo me, abbastanza inosservata, perché in una lunga parte di questa intervista è dedicata ai rapporti suoi col presidente Berlusconi, e a un certo punto gli si domanda a Baresi: mai stati in disaccordo? Risposta di Baresi, virgolette: sì, nella notte di Marsiglia autorizzare il ritiro della squadra fu un errore, una macchia da cancellare. Ora, poiché la colpa se l'è sempre presa Galliani durante questi 20 anni, e lo stesso Galliani di recente, levando gli occhi al cielo, ha detto la verità vera su Marsiglia la saprete soltanto dalle mie memorie, ma dalle mie memorie intendeva postume. Insomma, questa rivelazione di Baresi direi che getta una luce leggermente diversa. Dopodiché oggi invece, parliamo del 20 marzo, oggi lunedì 21, compie 50 anni Lothar Matthäus, uno che ha tenuto il suo posto nell'Inter della fine degli anni nella fine degli anni 80 e poi nella Germania, certamente, anzi subito dopo nella Germania, visto che fu uno dei leader della Germania mondiale in Italia nel 90. Giacomo ha chiamato da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, volevo spostare un attimo l'attenzione verso il campionato della Serie B e farle una domanda sul Novara, che seguo con simpatia, diciamo, e mi auguro che ce la faccia in Serie A, però mi sembra che sia un po' una caduta libera di questa squadra, come più che altro forse come risultati che non riesce più a vincere. Volevo sapere come mai, secondo lei, quali sono le cause di questa caduta, insomma. Non ne ho idea. Sinceramente, Giacomo, bisogna seguire vicino nel campionato, cosa che non accade nel mio caso. Immagino intanto caduta libera mi sembra un po' eccessivo. È una flessione che era abbastanza naturale aspettarsi, perché insomma non si può sempre soltanto crescere, no? Il Novara nelle due ultime stagioni è cresciuto in una maniera incredibile, dopodiché deve arrivare il momento dell'assestamento. Se riesce ad assestarsi come pare, se riesce ad assestarsi al terzo posto, terzo quarto, perché adesso mi pare che il Varese lo stia un tantinello insidiando, no? In classifica, se riesce ad assestarsi al terzo quarto posto e quindi a giocare, a qualificarsi in una posizione abbastanza agevolata per i playoff, per salire in Serie A, mi sembra che sia un grande traguardo che taglia. Calcoli che manca Gonzales, che era uno dei che Gonzales nel frattempo ha firmato col Palermo e da quel momento, cioè da quando ha cominciato a pensare al suo futuro, non ha più segnato. Queste sono le cose che accadono nel mondo del calcio. La coppia gol Bertani-Gonzales in tutto il girone d'andata sembrava Sanchez di Natale. Però magari Sanchez di Natale segnava pochissimo nel girone d'andata, soprattutto nelle prime giornate, e invece adesso timbrano che è un piacere, insomma. Sono i momenti del calcio che vanno e vengono. Gianni ha chiamato da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno, salve dottor Garanzini. Senta, io ho sentito dei tifosi milanisti delusi del Milan. Io sono juventino. Sì. Parlare di delusione mi pare veramente poco in questo momento. Siamo veramente esterrefatti di quello che ci sta accadendo, anche perché io sono un tifoso che ci crede nel calcio, nella Juve e in tutto lo sport, insomma. Una cosa, sentivo l'altro giorno Del Neri che diceva praticamente: io sto bene alla Juve, il mio futuro potrebbe essere quello della Juve, ditecelo subito in modo tale che vediamo o di cambiare sport o addirittura di non tifare più al calcio, perché in queste condizioni veramente siamo amareggiati, delusi per gente che ci crede in questo sport ancora. Io trovo che sia bello che ci creda anche chi fa il proprio lavoro, poi lo può fare più bene, più o meno bene, ma insomma, io uno che non si arrende, che crede di avere, o fa finta di credere di avere ancora un futuro anche nella Juventus, io non trovo che sia questa clamorosa mancanza di rispetto. No, siamo sempre lì alla sopravvalutazione della figura dell'allenatore nel bene e nel male. Ieri Chiellini ne ha combinate peggio di Carlo in Francia. Dopo 5 minuti doveva, diciamo con 98 probabilità su 100, essere espulso. Ha una responsabilità evidente in coproduzione con Buffon sul gol di Eder. Alla fine è riuscito persino a tamponare Krasic e a negargli un gol già fatto per la smania di esserci ad ogni costo. Ora, questa non è la colpevolità di Chiellini, sia ben chiaro, è che questo è il momento di un giocatore. Io trovo che quando un momento negativo, così negativo, un giocatore portante come Chiellini, si spieghino anche i cattivi risultati di una squadra più che non con gli allenatori. Angelo, chiudiamo con lei da Pordenone, buongiorno. Buongiorno, orgogliosamente tifoso dell'Udinese. Sì. Solo due piccoli appunti. Lei pensa che questa pausa possa portare qualche danno al momento magico della squadra friulana? E poi diciamo, mi riferisco in particolare a tutti gli stranieri, i cileni, i colombiani che saranno impegnati, e anche gli africani che saranno impegnati nelle varie partite. Angelo, siamo in chiusura, le chiedo scusa, gli stranieri ce li hanno tutti, quindi questo, se questo danno ci sarà, riguarderà l'Udinese come tutti gli altri. Io credo che un po' di riposo a questo punto della stagione, dopo una volata del genere, non faccia male a nessuno. I sogni non si quando i sogni hanno un minimo di fondamento non si interrompono, non per questo finiscono, si interrompono brevemente per poi riprendere al meglio. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.